Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buona domenica a tutti e bentornati alla tavola della bufala in tavola. Io vi immagino mentre state preparando il pranzo della domenica, oppure magari siete appena svegli, state sbadigliando e state guadagnando la cucina cercando di farvi un caffè, o ancora siete in faccende affaccendate, magari state pulendo la vostra casa. Comunque, per tutti un invito: prendete la vostra sediolina e accomodatevi alla bufala in tavola. C'è posto per tutti, potete portare naturalmente anche degli amici. Io ne ho portato uno che mi sta particolarmente a cuore, che so che voi amate perché avete avuto modo di conoscerlo in tante trasmissioni di cui è stato nostro ospite. A capotavola oggi della bufala in tavola il professor Dino Vaira, gastroenterologo e professore di medicina interna all'Alma Mater di Bologna. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, Nicoletta, a tutti gli ascoltatori. Allora, ben ritrovati. Professore, a proposito, quando si dice pancia mia fatti capanna, la pancia è godereccia? Perché in qualche modo quel languorino che avvertiamo in bocca, ma ci scende il vuoto che avvertiamo nella pancia, è quello proprio che ci fa andare in cerca di cibo e ci fa sedere anche a tavola felici e contenti. Poi è da sempre dalla pancia che parte quella sensazione di soddisfazione, di pienezza, che poi viene elaborata. Insomma, direi che la pancia è centrale, poi è la pancia che proprio in base a quello che mangiamo cambia un pochino forma nel così. Breve e nel lungo periodo. E quindi oggi andiamo a tavola per rendere felice la nostra pancia. Qual è la tavola della pancia felice, professore? Ah, la pancia di una tavola molto leggera, possibilmente non luculliana. Quindi possibilmente esattamente il contrario di Obelix e di Asterix. Quindi il cinghiale ce lo lasciamo a casa e ci facciamo un pezzettino, una cosa giusta, una cosa di buon senso, che fa felice sia la pancia sia il nostro sistema in toto. Professore, vorrei che lei ci aiutasse un pochino, dato che parliamo di tavola, parliamo di pancia, parliamo di fame, che ci spiegasse un po' quelle piacevoli sensazioni che sono anche indicatori del nostro stato di salute, del nostro benessere. L'acquolina in bocca, questa piacevole sensazione di fame. Sono legate a quel famoso secondo cervello. L'intestino è veramente un secondo cervello. Abbiamo il cervello che è la camera di regia, il secondo cervello è l'intestino. Quando l'intestino e la pancia sono felici, tutto l'organismo è felice, anche il cuoricino, anche i polmoni, anche i reni. Quindi questo è realmente condizio sine qua non. L'acquolina è la cosa più bella del mondo, una delle cose più belle del mondo, ovviamente, dopo l'amore, per esempio, che ti permette veramente di assaporare il gusto della vita, no? Quando è si vero. Diceva la pancia, io mi faccio una bella magnata e sono l'uomo più felice del mondo. Professore, a volte proprio il segnale che noi non riusciamo a riconoscere è quello della sazietà. Noi mangiamo anche se la nostra pancia ci sarebbe già sazia. E qui purtroppo dobbiamo tirare in ballo delle nostre mancanze. Non a caso le accennavo prima alla pancia gonfia, come sono felice. Perché ovviamente se io o qualcuno di noi ha delle piccole mancanze, le sopperisce con questo. Questo è ancora una volta legato da un processo biochimico scientifico molto noto. Quindi, come dire, nel momento in cui ho la pancia gonfia arrivano dei recettori sul mio cervello e mi fanno stare più tranquillo, che ovviamente è un fatto negativo nella sua positività. Mi perdoni il gioco di parole, come dire, nel momento in cui ho mangiato il cinghiale di Obelix io sono sereno, dormo sereno, sono in pace con il mondo, ma perché in realtà il mio organismo è completamente orientato sulla digestione di questo benedetto cinghiale, quindi non è in grado di fare nient'altro. Quindi la pancia ama cibi leggeri, per stare bene naturalmente, non ama il cinghiale, anche se noi spesso, no, esageriamo a tavola, non solamente con il cinghiale, mangiamo di fretta ed ecco che poi la nostra pancia si lamenta, borbotta, si gonfia, tende. Ci sono delle persone, e lei lo sa bene perché le vede quotidianamente, che mangiano ma poi devono fare i conti con una digestione lenta, difficile, quasi a pagare un prezzo per avere soddisfatto. È quello che le dice proprio vero, è quello che le dice proprio vero, perché questo è il concetto reale. Purtroppo il senso di sazietà non è limitato, questa è la nostra vera problematica, per cui più si mangia e più si ha voglia di mangiare, ecco perché ci vuole un minimo di autoregolamentazione. È un po' come alla bufala in tavola, obiettivo salute o Radio 24, più l'ascolti più ti viene voglia di proprio ascoltarlo. Sì. Professore, noi stiamo preparando la tavola della nostra domenica. Alla domenica, noi lo diciamo sempre, il cibo è anche un'occasione di convivialità, di piacere, anche un po' di trasgressione, soprattutto quando si trasgredisce insieme a delle persone che sono molto vicine a noi. Allora, prima di fare una nostra piccola pausa, io le chiederei di sedersi con noi, di darci qualche indicazione, anche di buon senso, attenzione, come quelle che dicevano anche un po' le nostre mamme, masticate con calma, piccoli pezzi, esempio, bevete, non bevete. Come ecco, giustamente diceva, questa è una cosa meravigliosa. Ma sai che sono meravigliata, perché è già la seconda o terza volta che mi dà ragione. Come sì, mai? Sì, non è più sì, il professor Vaira di una volta o io sono diventata brava? Sono diventata più buona. Forse è meglio la seconda risposta. È un po' di buon senso, perché come giustamente diceva lei, la tavola è una cosa bellissima, meravigliosa, quindi non dobbiamo assolutamente spaventare nessuno. Ovviamente l'ottica è il buon senso, che sembra la cosa più banale del mondo, ma è la cosa più difficile al mondo. Quindi il suo primo, il suo secondo, il suo contorno, la sua frutta, il suo bicchiere di vino, why not? Assolutamente la cosa più bella del mondo. Possibilmente non imitiamo, mi perdoni se mi ripeto, Obelix Asterix. Quindi nel momento in cui abbiamo mangiato il nostro primo, il nostro secondo, il nostro primo, non ricominciamo a rimangiarci di nuovo. Quindi gli avanzi. Ecco, di avanzi di cui parleremo, ecco perché nel nostro spazio Senti come mangio, che oggi trasformeremo declineremo in un altro modo, ma noi ci fermiamo. Ma invito tutti coloro che hanno un problema che è riferito alla digestione, a una malattia molto diffusa, parlo del reflusso, quando il cibo invece che va giù ma poi torna su, soffrono di acidità, giochiamo e puntiamo sulla prevenzione, ma soprattutto cerchiamo di capire che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo controllare, perché noi vogliamo sederci a tavola con grande serenità e prendere dalla nostra tavola solo e sempre il meglio per stare bene. Ci fermiamo, ma ritorniamo con il professor Vaira. Intanto voi accomodatevi, fate accomodare anche i vostri amici, vi aspettiamo a tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta La bufala in tavola. Come ogni domenica andiamo a caccia di bufale, però tutte quelle bufale che riguardano la nostra alimentazione, che impattano in modo diverso ma sulla nostra salute, a volte in modo più importante, a volte sono concetti che non sono necessariamente falsi ma sono mal interpretati, quindi ci inducono a comportarci in un modo, ad assumere atteggiamenti che possono in qualche modo contrastare, intralciare la nostra strada verso il benessere. E abbiamo sempre tanti ospiti, portatene anche voi, la nostra tavola vuole avere tanti invitati. L'invitato di onore d'onore oggi è il professor Vaira. Stiamo parlando naturalmente di pancia felice con tanti invitati, e io, pensando alla pancia e pensando agli ospiti, non posso fare a meno di pensare che anche il nostro stomaco può avere un ospite, un inquilino, direi, sgradito, che può vivere a nostra insaputa nel nostro stomaco, ed è stato scoperto dagli australiani e che per questo hanno vinto un Nobel, e lei c'era, professor Zaira, perché esatto, lavorava a stretto contatto con loro. Proprio così, proprio ecco, così. Bene, questo possiamo definirlo ospite, può essere un vero killer, quindi gli australiani l'hanno scoperto, gli italiani però hanno capito come cacciarlo. Parliamo dell'Helicobacter pylori, professor Vaira. Sì, in realtà non è un ospite, come giustamente diceva lei, è un nemico. È uscito proprio un mese fa un articolo bellissimo su la più grossa rivista del mondo di gastroenterologia, che si chiama, tanto per cambiare, Gastroenterology, che ha censito l'Helicobacter. 4 miliardi e mezzo su 7 miliardi della popolazione del mondo ha l'Helicobacter. Siamo al secondo posto, purtroppo questa medaglia d'argento non ci fa onore, dopo la carie. Quindi al mondo c'è la carie e dopo c'è l'Helicobacter. Quindi l'HIV, l'epatite, la toxoplasma, sono tutte delle cenerentole rispetto a questi numeri incredibili. Quindi non è un ospite, è un nemico. Ringraziando il cielo non ce l'abbiamo tutti. In Italia appunto su 60 un milioni... Un batterio killer, possiamo esatto, dire. Su 60 milioni, 30 milioni ce l'hanno e 30 milioni non ce l'hanno. Ma quando c'è, dà sicuramente del danno. È molto pericoloso. È maledettamente pericoloso. È un po' al ruolo che ha il fumo per il tumore dei polmoni. Proprio così, vedi che lei ha imparato bene. E vabbè, ho avuto un maestro, professore. È un cancerogeno di classe 1. Cioè sta alla stessa stregua del fumo per il cancro dei polmoni, l'Helicobacter sta al cancro dello stomaco. Quindi tirando via l'Helicobacter noi abbiamo la possibilità reale di salvare i nostri pazienti. Questa è una storia bellissima, Nicoletta. Ho investito 30 anni della mia ricerca su questa cosa. E la cosa più bella è il benessere dei pazienti. Questa è la cosa più bella. A proposito di faccia felice. Infatti, le scoperte hanno questo senso, no? Come dire, quando il grande Fleming ha tirato fuori la penicillina, lui non ha avuto coscienza di quanto bene abbia fatto. Invece noi, con questa grossa scoperta, con questo premio Nobel, tutti i giorni incontriamo dei pazienti che hanno la pancia felice, che digeriscono bene, che ti ringraziano e ti osanano. Questa è la cosa più bella di questo mestiere. Professore, ma questo sgradito, ecco, questo killer, ecco, chiamiamolo così, ci dà dei segnali della sua presenza o bisogna proprio cercarlo? Ci può venire almeno il sospetto? In teoria sì, a volte no. Non dimentichi mai che noi siamo fatti in maniera meravigliosa. E che 90 volte guarda, basta guardarci ogni esatto, giorno allo specchio. Lei è stato volte ispirato guardando me, esatto, vero? Proprio così, 90 volte su 100, come si diceva, come giustamente diceva lei delle nostre nonne, 99 su 100 noi riusciamo a farle in barba a tutti i mega professori, a tutti i mega dottori, a tutti i mega chirurghi, perché quello lassù, nostro Signore Gesù, ci ha fatto veramente in maniera perfetta. La fregatura di questa perfezione è che purtroppo 50 volte su 100 non abbiamo sintomi, ecco. Quindi basta una cattiva digestione, una pancia gonfia, un po' di reflusso, sono tutti campanellini d'allarme che meritano l'assessment, che significa andare a identificare la presenza o meno di questo batterio, come lo chiama lei giustamente, killer. Professore, quindi l'indicazione, tanto che ci stiamo sedendo a tavola, ne parliamo proprio la domenica, che è un giorno di relax, di belle mangiate con amici e con familiari, per dirvi, per sensibilizzarvi senza naturalmente creare panico. Se già adesso, prima di sedervi a tavola, dite però questa starò bene, mangerò le lasagne che mi prepara la suocera o il piatto di tagliatelle che è la specialità della moglie, ma poi io so già che farò i conti nel pomeriggio con la sonnolenza, con il peso sullo stomaco, con una sorta di acidità, ecco, potete eliminare tutte queste disagi, questi segnali che provocano il vostro malessere, cercando di vederci chiaro. Possiamo dire così, così? Proprio così. Quindi noi vogliamo che dopo il vostro pranzo voi possiate dire me la sono goduta e sto bene. E questo si può fare, professore. Assolutamente sì. Siamo nelle sue mani. Identificando nei meno, suoi studi. Identificando meno questo batterio. Perché come le dicevo, la cosa bellissima di questa avventura è il benessere del paziente. Ed è un benessere duraturo per 50 anni, quindi come dire, questa benedetta lasagna, questa benedetta tagliatella, nel momento in cui io ti identifico il batterio e te lo tiro via, tu starai bene per 50 anni, è la cosa più bella del mondo. Come lo scovo? lo scopo con un esame non invasivo, quindi non con questa sgodevole, sgradevole gastroscopia, per l'amor di Dio, adesso si fa veramente nell'arco di 20-30 secondi, ma resta sempre un esame invasivo. Quindi prima di fare questo esame invasivo si fa un esame non invasivo o il test sul respiro, o si va a cercare questo batterio nelle feci in maniera non invasiva. Nell'arco di 10 minuti si riesce a capire se c'è questo batterio. Non c'è, bene, siamo a posto per 50 anni. C'è, sì, lo tiriamo via. Lo tiriamo via. E dicevo, adesso non per vantarci, ma la cura è tutta italiana. Made in Bologna, oh, la grande alma mater, con 830 anni di storia. Assolutamente, assolutamente. Questa è una cura che abbiamo messo a punto noi, una cura di 10 giorni, ovviamente fatti di antibiotici, perché ricordiamo che questo è un batterio, non è un virus, quindi nulla a che fare con l'HIV, con l'epatite, che sono virus. Questo è un batterio e classicamente da che mondo è mondo, da Fleming fino adesso, i batteri vengono curati con l'antibiotico. Quindi abbiamo questo schema di posologia di 10 giorni con un doppio antibiotico e 95 volte su 100 questa è una partita che noi vinciamo per il resto della vita. Queste, in medicina queste cose succedono raramente, Nicoletta. Quindi quando ci si riesce, mi creda, si è veramente super soddisfatti. Ma professore, se io scopro di avere l'Helicobacter e faccio questa cura, per, si può utilizzare il termine, quindi eradicarlo? Assolutamente sì. Ecco, i miei familiari devono effettuare il test? Io posso averglielo trasmesso tra adulti o si trasmette solo dalla mamma al bambino? Lei sì, suo marito no. Guardi mo, che fregatura, che fregatura. Noi ce lo becchiamo dalle mamme, non dai papà. Quindi non si trasmette con i rapporti sessuali, con i baci, con gli affetti. Ce lo becchiamo quando le nostre mamme piene zeppe di affetto ci coccolano e quindi ci assaggiano con la punta della lingua il cibo, non per vedere se c'è del veleno come Cleopatra, ma in realtà per non farci scottare. O i ciucci, o i biberon, o i rigurgitini. Quindi noi ce lo becchiamo solo dalle mamme. Quando siamo piccoli? Da 0 a 3 anni. Quindi su 100 mamme 50 lo trasmettono e 50 no. Nel momento in cui non ce lo becchiamo in questi 3 anni, noi siamo a posto per 50 anni. Quindi mi raccomando, fate mente locale. Se dopo che fate un pranzo un pochino più, direi, ricco, luculiano, ecco, direi un po' come ci piace fare, come giusto che sia. E come giusto che sia, voi dovete in qualche modo pagare un prezzo. Parlatene con il vostro medico. Perché? Perché non solo rischiate di avere nello stomaco questo batterio killer che può farvi davvero male, ma perché proprio la vostra qualità di vita peggiora e invece potreste stare bene. In modo molto semplice, tutto 95% così, e bisogna vedere poi sempre, come dice un mio amico, in che percentuale uno cade. Beh, 95 è un bellissimo numero in medicina. No, è altissimo. È un bellissimo numero. Per chi numero invece cade nel 5%, che poco, ci penso, ma io ci sono. Viene a Sant'Orsola e ci penso. Senta, però il bello è proprio questo, capito? Come dire, il futuro non è fatto di ospedali, il futuro è fatto di prevenzione. La mammella la dice lunga: nell'arco di 3 anni con la banalissima mammografia abbiamo sconfitto il cancro della mammella. Quindi il futuro non è costruire ospedali, il futuro è costruire delle metodologie per arrivare 20 anni prima. Quindi qual è il concetto? Per esempio, noi facciamo il sangue occulto nelle feci per vedere il cancro del colon. Bene, nello stesso prelievo di feci noi andiamo a fare sia il colon che il cancro dello stomaco, e questo è il futuro. Senta professore, non possiamo, abbiamo parlato di stomaco, a volte il nostro cibo scende nello stomaco, ma a volte non si ferma lì, torna su. Parliamo tra poco anche, ne soffrono tutti, è di vero, questo. Ha ragione. Ma lei si è specializzato proprio su, in un campo con dei temi, dei problemi che sono sempre più di attualità, insomma, è sempre sulla l'intelligenza dell'onda, vedo. Dovrà servire a qualcosa, no? E certo, allora, dopo l'Helicobacter, grande tema che naturalmente interessa milioni di persone, parliamo proprio alla bufala in tavola di reflusso. Anche sul reflusso fioriscono bufale, fioriscono informazioni a volte non corrette, non posso dire false, tendenziose, ma anche in questo caso facciamo chiarezza. Una pausa e poi di nuovo insieme col professor Vaira. La bufala in tavola. Sei sempre tu, e giù non ci sei più. Dalla... E siamo ritornati alla bufala in tavola. Non abbiamo ancora mangiato, ma già stiamo pensando a che cosa ci potrebbe capitare se e quando mangiamo troppo. Ne stiamo parlando con un grande esperto, il professor Vaira dell'Università di Bologna, gastroenterologo. Abbiamo cercato di raccontare quali sono le caratteristiche della tavola per una pancia felice. Perché la nostra pancia poi ci invita a mangiare, perché insomma ci dice sono vuota, riempimi, ma poi se la riempiamo troppo non facciamo i suoi gusti, o anche la riempiamo magari in modo e con delle modalità lei non gradite, perché la nostra pancia vuole anche un po' di calma, vuole tutto l'ambiente intorno, insomma è un po' una signorina, professor come Vaira, giusto che sia. Come giusto che sia, a volte è un po' una socera perché borbotta e insomma ci dà del filo da torcere. Ma parliamo anche di quando nella nostra pancia, nel nostro stomaco il cibo arriva e in qualche modo torna su. Parliamo di reflusso. Ci inficia la qualità di vita, Nicoletta. Questo è veramente, ecco, rispetto alle ricobatte, come dire, che è un problema che noi risolviamo, il reflusso non lo risolviamo, lo miglioriamo, lo gestiamo, ma ci inficia veramente la qualità di vita. Quindi questa tosse, questo dolore che ci fa correre in pronto soccorso perché pensiamo di avere un infarto, ringraziando il cielo 85 volte su 100 invece è solo un reflusso, però uno cavolo se si spaventa, questa difficoltà nella respirazione, e poi ovviamente per l'amor di Dio questo drago che ci lancia come veramente il trono di spada, no? Come i draghi meravigliosi che ci lanciano queste fiammate su per l'esofago. Professore, ci sono delle abitudini alimentari che lo scatenano, cioè il reflusso c'è e ha delle origini, dei fattori di rischio e delle cause, ma ci sono delle situazioni che lo solleticano, è così? Purtroppo sì, qui devo essere impopolare, l'overweight. L'ho detto in inglese perché sperando che la gente non mi capisca, il sovrappeso è in assoluto il fattore più importante, in assoluto. Ma lei dice sovrappeso o pancione? Tutte e due, bene anche il sovrappeso, perché qui c'è questa benedetta valvolina che si chiama Cardias, che poverina è nata per far passare il nostro tortellino, io vengo da Bologna, quindi il tortellino passa. Ma che poi mi hanno detto che deve essere piccolo come l'ombelico di una donna. Sì, proprio così, tanto per cambiare, metafora. Certo. Perfetto, bellissimo. Solo i bolognesi potevano avere questa idea per forza. Così piacevole. È tutto consona con l'alma mater. Quindi questo benedetto tortellino piccolino è stato fatto a misura di Cardias per essere passare questo benedetto Cardias. Nel momento in cui questa valvolina non si richiude dopo il passaggio di questo benedetto tortellino, succede un patatrac. Non c'è modo però di farla. Certo. Per esempio bevendo l'acqua. È quella che noi ormai in redazione, soprattutto insieme a Laura Vanossi, noi chiamiamo la cura del professor Vaira, che ha avuto grandissimo successo. Noi abbiamo ancora persone che ci scrivono, insomma, le faranno un bustino. Professore, peccato che non l'abbia inventato io, ma... Professore, ci spieghi. Allora, vi torna su, cioè avete quella malattia del tornar su, perché il reflusso ha tanti modi modalità, con cui viene raccontato. Allora, professore, che cosa non dobbiamo fare e che cosa facciamo? L'esofago è un tubo che collega la bocca allo stomaco ed è stato creato ed è nato, mi perdoni la metafora, veramente con una mucosa tipo il sederino di un neonato, quindi è stato creato per far passare il tortellino, punto. Quindi non ha protezione, quindi una sbavatura di acido cloridrico, il famoso acido, dallo stomaco è come un elettroshock, come una scarica elettrica su questo povero stomaco. Ecco, non a caso del dolore. Ed è un dolore maledetto, cioè la gente va in pronto soccorso a Sant'Uso dicendo c'ho l'infarto, ringrazio del cielo, non e c'è. E dicono ma no, devi andare dal dottor Vaira. Vede, questo è il concetto. Quindi questo è il vero problema. Quindi a cosa serve l'acqua? A creare la famosa peristalsi, cioè a rieducare l'esofago e dire per favore, tu sei stato creato per far passare il tuo tortellino, rimettiti pian pianino a far passare il cibo, non contrasta questa possibilità di acido dallo stomaco nell'esofago. E l'acqua in assoluto è la cosa più fisiologica del mondo. Poi ovviamente abbiamo una miriade di farmaci, ma i farmaci come qualunque farmaco che Dio comanda, agisce per livello sistemico. Quindi io lo prendo per bocca, ma va ovviamente nel fegato, ovviamente va nel rene, ovviamente va nella milza, ovviamente va nei reni. Ma per le persone, professor Vaira, che soffrono di reflusso, poi diremo anche alcuni alimenti sono un po' da tenere sotto controllo e da limitare, stanno utilizzando dei farmaci che tra l'altro leggiamo gli studi, perché poi vengono fuori gli studi che dicono chi ha utilizzato per tanto tempo questa categoria di farmaci rischia, perché il farmaco va utilizzato quando serve sotto prescrizione medica. Che cosa si può fare per in qualche modo ridurre, no, il consumo di farmaci e provare a stare bene? C'è modo di rieducarsi? Intanto è colpa nostra, è colpa della classe medica, quindi certo. Dobbiamo assolutamente, io sono dare molto contenta quando quel che dice vi prendete, quindi, le vostre colpe, la verità, certo, perché siamo stati noi, ma mi lasci spezzare una lancia, la verità è che il medico di base, che è veramente il primo baluardo, che vede 60 persone di media tutti i santi giorni che Dio comanda, con questo tipo di farmaco lui risolve il problema. Ecco perché il povero medico di base il medico di base non ha più il tempo di dire al Signore: per favore mangia con molta calma, per favore stai attento ai cibi irritanti, per favore bevi l'acqua con moderazione. La cosa più semplice è dare questo farmaco funziona. Questa è funziona maledettamente. Per cui il signore esce dal medico di base con questa farmaco che funziona e dice: bene, adesso tutte le volte che devo andare a fare un panzo loculiano, tanto per cambiare ospiti di Obelix e Asterix, mi mangio tranquillamente il cinghiale, perché tanto può prendere il farmaco e sono a posto. E questo è il problema. Allora, vi riconoscete nella descrizione che ha fatto il professor Vaira, ecco adesso che cosa dovete fare a partire da... Si dice sempre da lunedì, ma a partire anche da oggi, che è domenica. Buon senso. Ovviamente evitare, stiamo parlando solo per chi ha il reflusso, quindi chi non ha il reflusso può fare quello che vuole. Esatto, parliamo di Dio. Non. E su questi che hanno il reflusso stiamo parlando di 10 milioni su 60 milioni. Quindi però, comunque una percentuale del 20-25%. Però sa che quei 10 milioni stanno male, hanno una qualità di vita veramente infausta. Quindi non sono felici, non amano i propri figli, non amano le mogli, non amano le fidanzate, non amano il lavoro, no, veramente è una qualità di vita veramente infelice. Quindi assolutamente stare attenti ai cibi, ovviamente. Ecco, quali sono quelli? I famosi irritanti, e anche qui devo essere impopolare, il caffè purtroppo. Adesso mi odieranno tutti, la cioccolata purtroppo, ma il pepe e il peperoncino, gli agrumi intesa come spremute e il famoso vino bianco. Ecco. Però intanto il professor Vaira ce li ricorda. Sì, pasta sì, carne sì, pesce sì, frutta sì, verdura sì, latticini sì, quindi in realtà si può mangiare di tutto. Attività fisica, per favore, un po' di attività fisica, ma banale, anche una camminata a passo veloce, cioè nessuno si deve allenare per le prossime Olimpiadi, ci basta mezz'ora alla settimana. Dimagrire significa solo, ecco, non andare in sovrappeso, tutto qua, nessuno vuole. E poi acqua, bevete acqua, questo è il consiglio del professor Vaira, ma... Le donne mi odiano perché mi dicono che loro bevono l'acqua e poi sono costretti a espletare il riflesso della menzione, che volgarmente è la nostra famosa pipì. In realtà questo si limita moltissimo con l'assunzione di piccoli sorsi di acqua. Noi abbiamo bisogno dell'acqua dentro le cellule, non nella vescica. Quindi paradossalmente, se una mia paziente va 20 volte in bagno, vuol dire che assume male l'acqua e non va bene assolutamente. Quindi la metafora è la famosa flebola, goccia lenta che esce. Quindi dalle 8 all'1 un litro, dalle 14 alle 19 un litro. Mi rendo conto, è scocciante, è un po' brigoso, ma questa è la modalità giusta. Quindi piccoli sorsi di acqua durante tutto il corso della giornata. Lei ha proprio dato addirittura degli orari che coincidono con quelli del prima e dopo il pasto. Non a caso ho detto fuori dei pasti. Anch'io arrivavo lì, fuori dei pasti, ma io volevo di nuovo portarla a tavola. Per chi soffre di reflusso, ma anche per chi vuole mantenere questo rapporto sereno con la propria pancia, quindi stare bene. Si parla sempre acqua ai pasti o no? Bene, gonfia se si beve. L'acqua fa sempre bene, l'acqua non gonfia mai. L'acqua gonfia chi non beve. Cioè le donne che non bevono hanno perfettamente ragione che quando si bevono due bicchieri d'acqua si gonfiano, perché gorgoglia, quindi arriva in un organismo completamente privo di acqua e quindi gorgoglia, quindi si ha la sensazione paradossa di gonfiore. Questo è reale. Però è tipico delle donne che non bevono acqua. E qui e gli uomini invece? Gli uomini la bevono molto di più, le donne ovviamente hanno sempre questo giustissimamente patema di essere assolutamente sexy, ma è giustissimo, è la cosa più bella del mondo. Guardi, allora facciamo così, noi ci fermiamo un attimo perché professor Vaira, noi abbiamo parlato di che cosa portare a tavola, ma soprattutto di che cosa fare e non fare e come evitare ed eliminare alcuni problemi che spesso insorgono nel momento che segue il pasto. Abbiamo messo tante cose buone a tavola, ma bisogna anche prepararle che arrivino anche nelle nostre case in contenitori adeguati, e poi quando abbiamo degli avanzi vogliamo anche conservarli in modo efficiente, appropriato, e poi anche facciamo un tu per tu con la spazzatura per una raccolta differenziata. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, a cui chiederemo se soffre anche lui di reflusso. Speriamo di no, ma ormai anche lui nel caso avrà imparato che bisogna andare piano e bere acqua e eliminare gli alimenti un pochino più irritanti, ma che si può fare. Ma la bella notizia che ha dato oggi il professor Vaira, ha ben sottolineato che riguardo all'inquilino, io lo chiamo un ospite che è un batterio killer in verità, che abita nel nostro stomaco, la cura c'è. E questo è un successo della ricerca, un successo della medicina. Il 95% dei casi si può eradicare questo batterio killer. Mi fermo perché vado ad aprire la porta al prossimo ospite. Intanto voi sentite che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. A tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. La bufala in tavola. Siamo ritornati insieme, siete ritornati insieme alla bufala in tavola. Mandatemi una foto di voi a tavola o della vostra tavola. Raccontatemi che cosa state preparando. Anch'io posterò le mie. Ma io sono nel frattempo andata a recuperare un altro ospite della bufala in tavola. Gli diamo un pochino oggi, lo festeggiamo, dobbiamo un po' ristorarlo. È il dottor Roberto Di Molfetta, buongiorno, buona domenica, responsabile area riciclo e recupero di Comieco, che è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Sarà il protagonista del nostro spazio Senti Come Mangio, che oggi si trasformerà in Senti Come Conservo. Perché dicevo, professor Vaira, che dobbiamo un po' festeggiarlo e ristorarlo? Perché il dottor Di Molfetta torna da un appuntamento molto impegnativo, piacevolmente impegnativo, stimolante, sfidante, come è Ecomondo, questa fiera leader della Green and Circular Economy nell'area euro-mediterranea, dove eravate, che si è svolta a Rimini, si è appena conclusa e a cui lei ha partecipato. È stanco? Soddisfatto? Soddisfatto, relativamente stanco, ma soprattutto soddisfatto, perché c'è stata moltissima partecipazione. Comieco è uno dei consorzi del sistema CONAI che si occupa del riciclo degli imballaggi ed è una struttura privata, un sistema privato costituito da oltre 1 milione di imprese che in Italia producono materia prima di imballaggio, producono imballaggi, distribuiscono gli imballaggi. Quindi entrano nelle nostre case tutti i giorni, un mondo che noi diamo un po' per scontato, su cui non poniamo particolare attenzione, ma tutto quello che noi portiamo nelle nostre case e arriva nelle nostre cucine, quindi nei nostri frigoriferi, nelle nostre dispense, sulle nostre tavole, ha un qualcosa che lo contiene. Ha un contenitore che è importantissimo perché permette il trasporto, permette la sicurezza degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole, garantisce informazioni. L'imballaggio è spesso un supporto di informazioni, in particolare quelli appunto cellulosici, e quindi è diventata una componente importante dei nostri consumi e poi del post consumo. Il sistema delle imprese degli imballaggi si fa carico dell'avvio a riciclo, quindi di ridurre, annullare è l'obiettivo, l'impatto ambientale che possono avere gli imballaggi di carta, plastica, vetro, alluminio, acciaio e legno dopo che noi li abbiamo utilizzati. Ma sono contenta di averla invitata, dottor Di Molfetta, perché il professor Vaira, che ci ha detto tutto sul batterio killer e su che cosa fare per assicurare la nostra pancia salute e benessere, adesso imparerà dal dottor Di Molfetta come farò io tutte le attenzioni e le precauzioni, ma ci aiuti anche a così coltivare una certa educazione, perché noi dobbiamo maneggiare questi, e li maneggiamo, gli imballaggi, dobbiamo saperli utilizzare al meglio, dobbiamo sfruttarne tutte, anche la ricerca che c'è dietro all'imballaggio. Ma dottor Di Molfetta, io vorrei che lei oggi ci aiutasse a utilizzarli nel modo corretto, andando anche a smascherare delle, non so se possiamo chiamarle leggende metropolitane, ma a volte non abbiamo tanto le idee chiare, magari evitiamo di fare o adottare alcuni comportamenti a favore di altri, quando invece la vita potrebbe essere molto più semplice. Certo, alle volte questo è il suo portateco alla bufala in tavola, perché lei è venuto tortellini, piade, non me ne ha portate. E anche se ricordo che il tortellino è un imballaggio ante litteram, perché nella pasta del tortellino, lei è un po' bolognese, nella pasta del tortellino conserva, permette di portare il ripieno, di tenerlo intatto, di cucinarlo in modo adeguato e poi di farlo passare dal cardias. Solo che questi tortellini spesso noi li compriamo in una vaschetta. E quindi è molto semplice gestire bene gli imballaggi, spesso ci facciamo tante remore, ci e impegniamo. Poi utilizzarli anche per conservare in modo adeguato i cibi, certo. La famosa schiscetta. Certo, non so, io una cosa che ho imparato dai colleghi del CIAL è che il foglio di alluminio può contenere anche i cibi acidi, almeno per 24 ore, quindi i pomodori che avanzano possono essere messi nel foglio di alluminio e non c'è nessun tipo di alterazione lei, professor Vaira, di questi elementi. Non ci credo. Perché non parte l'ossidazione, non parte il processo di ossidazione, quindi non c'è nessun consumo o alterazione più che altro. E cos'altro imparato? No, imparato, lei le sapeva, ma... Ma no, io lo imparo dai colleghi. La fiera di Rimini è un momento importante di contatto con gli operatori del settore, c'è un mondo che si occupa del riciclo nel nostro paese ed è anche un momento di scambio di esperienze e anche di qualche curiosità con i colleghi. Altre cose che ho imparato, stiamo per il momento sempre sull'alluminio, le vaschette dell'alluminio possono andare nel microonde. E questa è una notizia che... pazzesca per molti, perché io per prima ho sempre detto: mi raccomando, non mettete l'alluminio nel microonde che scoppiamo. Invece no, bisogna togliere il coperchio, se di cartone o di plastica dobbiamo rimuoverlo, posizionare la vaschetta sul piatto al centro del microonde, che non deve, la vaschetta alluminio non deve toccare le pareti del forno a microonde, e dopodiché si può utilizzare. Questo dicono i colleghi dell'alluminio. Lei lo proverà? Sì, mi impegno a provarlo, eventualmente poi ci fa sapere. Le racconto altre, così notizie che magari smascherano o confutano dei luoghi comuni? Il lavare in modo ossessivo i contenitori dopo l'uso. Allora, specialmente tutti i contenitori in metallo, ma anche quelli in plastica, vanno svuotati. Sì. Vanno rimossi per quanto possibile, umanamente possibile, i residui, perché comunque sono poi contaminanti che entrano nel ciclo del riciclo. Sì. E però non è necessario lavare, strofinare, pulire, è necessario mettere nella raccolta differenziata. Quindi anche quando abbiamo la scatola della pizza spesso è sporca della pizza. Allora, sicuramente bisogna togliere la crosta, cioè non lasciare dentro residui di pizza, ma è una cosa molto semplice. Se poi il coperchio è proprio tanto sporco, lo si può strappare e mettere nella raccolta dell'organico. Sì. La carta è compostabile. Tutti i fazzolettini, tovaglioli di carta sporchi si possono mettere nella raccolta differenziata dell'organico ed è una componente compostabile al pari degli rifiuti organici. Il resto della scatola naturalmente nella raccolta differenziata di carta e cartone. Allora, la bufala in tavola di solito spazzoliamo tutto, però può capitare di avanzare qualcosa. Allora noi diamo ai nostri amici la possibilità di portarsi la schiscetta a casa, il doggy bag. Sì, è un'iniziativa che è nata nel consorzio Comieco, ma anche gli altri consorzi si sono adoperati, ed è legata alla legge antispreco. Nel senso che purtroppo nel nostro paese si sprecano tanti alimenti, in parte prima, e ci sono una serie di accorgimenti, poi magari le racconto, dell'imballaggio attivo. Sì. Si sprecano spesso perché appunto si buttano dopo l'uso. Comieco ha lanciato un'iniziativa con Slow Food nei ristoranti italiani, il doggy bag a disposizione dei commensali, che se avanzano qualcosa si possono portare a casa. Dopodiché naturalmente la scatoletta di cartoncino del doggy bag nella raccolta differenziata. Quindi potete fare anche il contrario, nella prossima puntata della Bufala in Tavola potete portare voi, noi di solito non avanziamo nulla, se volete portare qualcosa, soprattutto se volete portare i vostri dubbi, le vostre richieste, spunti per trasmissioni, per temi, scriveteci la bufala in tavola @radio24.it. Chiederò al dottor Di Molfetta di farci anche un approfondimento, una sorta di vademecum che potete trovare sulle pagine della Bufala in Tavola, perché lei mi ha parlato di, e non abbiamo più tempo, di una cosa attiva che mi piace. Sì, le cassette della frutta che diventano un imballaggio attivo che prevengono il deterioramento della frutta. Grazie a degli oli essenziali, è un brevetto studiato con l'Università di Bologna. A proposito, eccoci. Allora, sulle pagine di Obiettivo Salute trovate questo approfondimento. Noi ritorniamo dal professor Vaira per ringraziarlo e per salutarlo di a essere stato con noi. Dottor Di Molfetta, lei si ferma perché noi dobbiamo registrare per i nostri amici l'approfondimento su questa novità. Vi auguro una buona domenica, vi aspetto domani a Obiettivo Salute, sempre a mezzogiorno, che è il momento della vostra salutare ossessione quotidiana. Passatevi un buon pomeriggio, un saluto caro da Nicoletta.